Dirti una croce scavata nel lemmo, filtra visione del mondo nutrito da schegge d'odio. Thank you. σκέψη αλλά δεν το είμαι στέσο πάτσε αυρό τράλε τσι με δίκο ημών τράλε νουμι μία δημόρα ήλμεσή αλλά δεν το είμαι στέσο πάτσε αυρό τράλε τσι με δίκο ημών. Oh, Bye. torpore di un sonno stanco. E a nulla serve che io lotti per stare sveglio. Ecco che la visione mi assale. Io il mio popolo cavalca nella prateria e corre verso sud. Come on.

scorrere libri di storia per scoprire che alla gente non è mai fregato niente di trasmettere un progresso ritrovato dai figli per inseguire di nuovo i propri sporchi interessi. Una morale fasulla sempre più evoluta che dal simbolismo sciocco, da scaltro stregone, giungesse ad affinare una tecnica squallida per speculare dentro. Ora noi diciamo basta ai re, agli stregoni, ai nostri paradisi artificiali. Vogliamo credere in quello che sentiamo, gettare in faccia al passato il peccato di una mela, un posto, o, come dite voi, ereditato. Vogliamo solo vivere, sia giusto o sbagliato. sulla spiaggia. La mia vista cade su una stella. Sua luce era più fioca, sembrava quasi stanca. Stanca di brillare, mi si fa incontro. Spegnersi, non sarò più come prima, diventerò un pianeta, diventare una cometa e sciogliersi nell'immensità.